America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. La strage di Las Vegas, l'unica certezza in questo momento è che è la più grave sparatoria nella storia degli Stati Uniti d'America. Mi ha colpito una cosa, che era un concerto che per l'America è un evento importante sul piano culturale, su quello emotivo. Questo era un concerto di musica country, Route 91 Harvest Festival, però vorrei restare sul concerto e sul volto buono dell'America. E dunque restiamo su un evento che rappresenta questo volto buono dell'America, un concerto che inaugurerà uno spettacolo importante a New York. They were tacking that coke and limestone, fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Beh, l'avrete riconosciuta, Youngstown, grandissima canzone di Bruce Springsteen, che parla dell'America profonda, dell'America dei minatori, questa America tra virgolette vere, che oggi poi non sappiamo più se è l'America che vota per Springsteen, grande democratico, sostenitore di Obama, o per Trump, che in effetti ha aperto molto nei confronti dell'America più profonda. Perché vi parlo di Bruce Springsteen? Ma perché sta per capitare oggi, questa sera per essere più precisi, a New York, un evento storico per il mondo dello spettacolo naturalmente, ma anche di questo vi devo parlare quando vi racconto l'America. Cosa succede? Che Bruce Springsteen debutta a Broadway. E voi direte, vabbè, e allora? E no, qui è veramente una svolta importante nella carriera di questo straordinario cantante. Lo spettacolo si chiama Springsteen on Broadway, sarà al Walter Kerr Theatre, ed è uno spettacolo, come ha detto Springsteen, volevo fare un qualche cosa che fosse il più intimo e personale possibile. E dunque questo Broadway glielo consente, non è uno stadio con 50-100.000 persone, ci sono al massimo 960 posti. Qual è la novità? È che Bruce Springsteen vuole raccontare se stesso, vuole parlare col pubblico, vuole parlare di aneddoti, vuole fare lo storyteller. Lo storytelling è una grande tradizione americana. Vi do una piccola anteprima, diciamo, attraverso la mediazione della BBC, perché qualche cosa ha già raccontato. I know I'm a phony, but I'm also the realest thing you've ever seen at the same time. Ecco, avete sentito Springsteen, dice, so che sono un bugiardo, ma allo stesso tempo sono anche la cosa più vera che tu abbia mai incontrato. Per quanto mi riguarda, la prima volta che ho sentito parlare dell'America in un modo che mi ha davvero colpito, di un'America in cui credevo che mi rappresentava, è stato nelle canzoni di Bob. And you better start swimming or you'll sink like a stone by the time. Ecco, Bob Dylan. Chi era il Bob di cui parlava nell'intervista? Era proprio Bob Dylan. La sua musica, la musica di Springsteen, è stata profondamente segnata, come ha detto lui stesso, dall'influenza di Bob Dylan. E in questo filo conduttore che si inserisce Springsteen, è questo che vuole raccontare il mondo in cui è cresciuto, vuole raccontare la sua infanzia, la storia della sua famiglia, del padre Douglas Freddy, che aveva origini olandesi, la madre italo-americana Adele Zerilli, pensate, arrivava da una famiglia emigrata negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, da Vico Equense, vicino a Napoli. Ma Springsteen vuole raccontare il resto, la sua carriera. 15 anni, nel 65 comincia a esibirsi come chitarrista nei The Rogues. E quali sono i suoi idoli? Beh, allora cantavano altri, ma uno degli idoli importanti per Springsteen era Roy Orbison. E voglio proporvi una canzone che conoscerete di sicuro, storica, Pretty Woman, tratta dallo show televisivo Black White Night, dove Bruce Springsteen, poi parliamo del 1988, Bruce Springsteen suonava come chitarrista, era già famoso a quel punto, era un grande personaggio nazionale, internazionale, la sua carriera era a quel punto esplosa, ma in omaggio a questo suo vecchio maestro partecipò a questo spettacolo, suonava la chitarra, faceva il coro, si è presentato in giacca, camicia bianca e cravatta. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, Ma come nasce l'idea di questo Springsteen on Broadway? Perché anche questa è una storia molto molto interessante. E beh, nasce da un episodio. Tutto nasce il 12 gennaio di quest'anno alla Casa Bianca, sono le ultime settimane dell'amministrazione Obama, e Springsteen aveva fatto un regalo al presidente e il presidente a sua volta voleva fare un regalo al suo staff, cioè un concerto molto ristretto appunto con Bruce Springsteen, che si presentò unplugged con chitarra. Raccontò molto della sua vita, delle sue sensazioni, dell'essere americano, di che cosa significa l'America, del perché Donald Trump, secondo lui, non rappresenta la vera America, ma rappresenta un'America meno pronta all'apertura, alla compassione, all'altruismo. E dunque sentiamo Barack Obama al Kennedy Center, dove c'è sempre una celebrazione annuale per i grandi artisti americani, che celebra proprio Bruce Springsteen. Finally we honor the quiet kid from Jersey, who grew up to become the rock and roll laureate of a generation. I'm the president, but he's the boss. Ecco, alla fine onoriamo il ragazzino del New Jersey, cresciuto, diventato il re del rock della nostra generazione. Nella storia della nostra nazione solo poche persone hanno sfruttato appieno il potere della musica per raccontare al mondo l'America. Ecco, questo che ha fatto Springsteen. Ha raccontato al mondo l'America, ha consentito a tutti coloro che ascoltano la musica americana di sognare questa America descritta nelle sue canzoni. Un'America che oggi purtroppo è ovviamente molto diversa, almeno nella percezione che il pubblico ha attraverso le parole del presidente Donald Trump. E Obama continua, c'è questa persona, è Bruce Springsteen. È in grado di descrivere come nessun altro lo spirito di ciò che l'America dovrebbe essere. E quando lo sento suonare mi ricordo solo di una cosa. Io sono il presidente, ma lui è il boss. Il boss. Beh, tutti sanno che Springsteen è chiamato The Boss. Comunque sia, come vi dicevo, tornando a casa da questo concerto della Casa Bianca con il suo manager John Landau e con sua moglie Patti Scialfa, beh, Scialfa italiana, probabilmente di origine, direi, siciliana. Ebbene, non avevano dubbi, dovevano rifare questo spettacolo della Casa Bianca per condividerlo con un pubblico più ampio in onore delle sue radici. E parlando di questo spettacolo che si apre oggi, ha detto, ma dice, non ho mai avuto un lavoro 9 to 5, un lavoro di quelli dalle 9 alle 5, regolare. Qui suonerò tutte le sere per 5 giorni alla settimana, per molte settimane. È il mio primo vero lavoro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, magari qualcuno di voi immagina che potremmo fare Born to Run, ma l'abbiamo fatta altre volte. Io invece vi propongo, in onore di questo cantante e delle sue radici, In Freehold, la città dove è cresciuto e che ci racconta appunto in questa bellissima canzone. I was born right here on Randolph Street in Freehold, right behind that big red nickel in Freehold. I went to school right here, got laid and had my first bed here in Freehold. My folks all lived and worked right here in Freehold. Remember running up the street past the coffin of the church in Freehold. I chased my daddy down in these bars, first fell in love with his guitar. Hey, in Freehold. Had my first kiss at the YMCA canteen on a Friday night. Maria Espinosa, baby, where are you tonight? You were only 13, way ahead of your time. I walked home with a limp, but I felt just heaven. I'm Freehold. Well, the girls in Freehold region, yeah, they look pretty fine. I had my heart broke at least half a dozen times. I wonder, do they miss me? Do they still get the edge? They'd dump me if in the right strike. Straight out of Freehold. A lot of good people gave us a hand in Freehold. When we started a bear, I'd roll bang in Freehold. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!